quel cespuglio con le scarpe. Alla tua faccia naso a porra, al tuo di dietro testa di vetro, testa di zebra di colore ricoperta di melma, e tu sei un monumento al vetro. Tacca fiacca di vacca sporco ultraporco, sputo prodoso e appiccicoso d'un lebroso caccoloso. Testa